24 mattino. Ed eccoci qui, 7:17 minuti, ancora una buona giornata ad Anna Migliorati, pronti i quotidiani quest'oggi in edicola come sempre per la nostra carrellata. E allora cominciamo, i temi oggi a dominare le aperture dei quotidiani sono soprattutto due: i tagli, né tasse, come ha detto ieri il Premier Renzi, vale a dire la nuova manovra economica che comincia la sua strada, e poi la condanna all'Italia arrivata da parte della Corte di Strasburgo sul G8. Ma c'è un altro tema che resta, ed è quello dell'orrore in Siria, i profughi ormai allo stremo e accerchiati, un'altra Srebrenica, come dice ora l'ONU. Di questo, tra l'altro, già vi anticipo, parleremo dopo il giornale radio delle 8. Intervenire o non intervenire, guerra globale, insomma davvero un orrore da fermare. Ma dicevamo, intanto i quotidiani in edicola, cominciamo da La Repubblica, l'apertura qui dedicata alla G8, alla Diaz fu tortura, l'Europa condanna l'Italia, la Corte di Strasburgo dice deve essere reato, serve una legge, le polemiche in Parlamento. A fianco, dicevamo, l'altra notizia, niente tagli né tasse in più, ecco la manovra. Il Secolo XIX, doveroso questa mattina subito uno sguardo, perché insomma il G8 ha colpito al cuore la città di Genova, tortura al G8, l'Italia paghi, la Corte di Strasburgo e la Diaz di Genova, violati i diritti umani. Il Fatto Quotidiano, la tortura è reato, punto. In Europa, così titola Il Fatto, Il Manifesto, banditi d'Europa, Il Giornale, la lettura è diametralmente opposta, sentenza europea, scrive Il Giornale, ora torturano i poliziotti, ma tutti dimenticano che per 3 giorni le vittime degli scontri furono le forze dell'ordine. L'altra apertura di giornata dedicata invece al DEF, tagli da 10 miliardi e l'incognita delle tasse, così titola Il Sole 24 Ore, PIL allo 0,7%, ripresa degli investimenti, ma è già duello con i sindaci, lo dicevamo già ieri, ed ecco scintille tra Renzi e i sindaci. Il titolo d'apertura del Corriere della Sera, il Premier, non ci saranno né tagli né imposte. La Stampa, anche qui scatterà il prossimo anno la tassa unica sulla casa, ma è sfida con Fassino sul Fatto di Stabilità. Così tagli per ridurre le tasse, anche il Messaggero, Il Giorno, Renzi, né tagli né tasse, una carrellata, ma più o meno il tenore è sempre lo stesso. Libero, invece, sceglie tutt'altro tema, buttati 500 milioni in 3 anni, la scuola dei clandestini, regione per regione, ecco come sprechiamo risorse per accogliere chi chiede asilo. L'Avvenire, il terzo tema di cui parlavamo e di cui ci occuperemo anche noi in questa mattina, bambini in trappola nell'inferno siriano, il campo di Yarmouk stretto tra filo Assad e ISIS, le forze del califfato cercano di prendere il controllo dei campi profughi palestinesi, con testimonianze shock, è in corso una carneficina, così titola Avvenire. Ma cominciamo dal G8, perché molti sono i commenti, molte le analisi, le interviste questa mattina. Per cominciare, intanto vi leggo la vignetta di Vincino sul Fatto Quotidiano. G8 2001, Italia condannata per tortura. Troppo tardi, in 14 anni abbiamo imparato a non vergognarci più di niente. E ci ricorda in qualche modo la vignetta che se ne parla. Siamo nel 2015, i fatti sono del G8 del 2001. I commenti, dicevamo, allora su Repubblica innanzitutto le interviste anche a chi c'era allora. Nella scuola mi massacrarono, però sarò felice solo quando qualcosa cambierà sul serio, dice Arnaldo Cestaro, a 75 anni e in quelle ore era a Genova, e oggi i racconti di quello che accadde allora li trovate veramente un po' ovunque. Il Secolo XIX, dicevamo, Genova colpita al cuore da quanto accadde, il commento, un bene anche per la polizia, qualcuno però non vuole capire, scrive Roberto Settembre. È una sentenza importante perché ha sancito un principio che sfugge alla vulgata, che è tortura anche una singola condotta svincolata dall'intenzione di ottenere qualcosa dal torturato e soprattutto gratuita e indipendente dal comportamento di questi. Una sentenza che in molti però non vogliono capire, così scrive il Secolo XIX. Sul Corriere della Sera... Anche qui commenti e analisi, Michele Ainis. Tirate d'orecchie da parte della Corte di Strasburgo. Non è la prima volta e non sarà neppure l'ultima. Ormai abbiamo le orecchie rosse come chi soffre d'un febbrone permanente. In questo caso dipende dai fatti, o meglio dai misfatti della Diaz. E allora eccoli i numeri, li ricorda Michele Ainis: 63 feriti, 125 poliziotti sotto accusa. Significa che anche in Italia pratichiamo di rado e meno male la tortura, però non c'è reato, sicché l'Europa mette sotto accusa il nostro ordinamento. Ecco qual è la questione: l'Europa ci accusa non tanto di quel che è accaduto, ma di non avere un reato di tortura. La legge sulla tortura è pronta, eccola, da domani sarà in aula a Montecitorio. A sentire le dichiarazioni di ieri, riparare alla pessima figura fatta con la censura di Strasburgo al nostro paese privo di un reato specifico sembra cosa fatta, solo una questione di tempo. Discutere gli emendamenti, un passaggio fugace al Senato e voilà. Ma è davvero così? Si chiede il Corriere della Sera. Il timore di non inimicarsi le forze dell'ordine ha avuto un ruolo in questo rinvio dell'approvazione finale della norma, sempre annunciata, approvata in un ramo del Parlamento e poi dimenticata lì, malgrado i richiami dell'Europa. E quello di ieri è stato solo l'ultimo, perché ne era già arrivato uno nel 2012, ma poi via via anche negli anni precedenti. Stavolta, scrive il Corriere della Sera, dopo lo schiaffo di Strasburgo, il Parlamento riuscirà a tenere a mente l'esistenza di quel provvedimento fino all'approvazione finale? E allora, chissà, questa è la domanda che resta in sospesa. Ma ci sono ancora discussioni aperte su quel provvedimento finale, inutile dirselo, non è proprio tutto così semplice e così già scritto. Sul Giornale il commento questa mattina affidato Alessandro Sallusti. È vero che lo Stato deve comportarsi sempre e comunque a norma di legge, ma è anche vero che in quelle ore a Genova era in corso una vera e propria guerra contro lo Stato e contro la comunità internazionale che l'Italia stava ospitando. 5.000 criminali provenienti da mezzo mondo si erano mescolati a una folla di manifestanti complici e avevano messo a ferro e fuoco la città, attentato alla vita di poliziotti, carabinieri e civili, devastato attività commerciali. Io lo dico chiaro, scrive Alessandro Sallusti, non mi vergogno della polizia e dei carabinieri che operarono a Genova per difendere lo Stato di diritto dalla furia di criminali comuni, loro sì, torturatori impuniti delle nostre città e delle nostre libertà. Segno che appunto la discussione è tutt'altro che chiusa. E allora un protagonista di oggi, e con questo chiudiamo anche la carrellata davvero dei moltissimi commenti, un protagonista di allora lo intervista La Stampa di Torino. Andiamo anche qui nelle pagine interne, pagina 5, l'intervista a Gianfranco Fini, vicepresidente del Consiglio nel 2001. Gianfranco Fini, nei giorni del G8, questa è la domanda che in tanti anni si è ripetuta, era lì a Genova? Sulla sua presenza, sulla sua partecipazione alle decisioni prese in sala operativa è nata una leggenda. Una leggenda mal costruita, dice ora alla stampa l'ex presidente della Camera. Non c'ero e questa è storia, tanto vero che i magistrati non mi hanno mai sentito e non hanno mai sentito la necessità di interrogarmi. Quindi non è lei che partecipò alle decisioni della sala operativa? Assolutamente no. Attesi le mie 6 ore in caserma e poi andai via. La sentenza europea dice che a Genova le cose andarono in maniera inaccettabile. Che cosa pensa che sia accaduto? Penso che dopo la morte di Giuliani la situazione dell'ordine pubblico sia scappata di mano a tutti. Ci sono stati molti funzionari di polizia, anche importanti, condannati per avere tentato di fabbricare prove false sull'irruzione alla DIA. Perché lo fecero, secondo lei? Gli chiedono e risponde Fini: io non mi schiero con la dietrologia. Di sicuro quei funzionari non si diedero si diedero da fare perché dovevano nascondere misteriosi ordini della politica. Al contrario, se ci fossero stati ordini del governo, quei funzionari lo avrebbero fatto subito per salvare le loro carriere. Penso che fecero quel gesto per salvarsi da imputazioni maggiori e più gravi. Importante, dice, è che ora si introduca il reato di tortura, così dice Gianfranco Fini, ma che non diventi l'occasione per una posizione squilibrata contro le forze di polizia. Ed ecco perché la discussione, dicevamo, è ancora aperta. Una piccola pausa, ma ci sono molti altri temi sui giornali di oggi. Ci torniamo tra pochissimo. 24 mattino. Ci siamo, comincia il balletto della manovra finanziaria. Ieri il primo passaggio in Consiglio dei Ministri, ci tornerà venerdì il confronto coi sindaci, insomma anche quest'anno tutto secondo le regole. DEF, tagli da 10 miliardi, l'incognita delle tasse, così titola quest'oggi il Sole 24 Ore. Il governo ha avviato l'esame del DEF 2015 rimandando appunto il varo a venerdì. Renzi, non ci sono né tagli né aumenti di tasse, attesa per la manovra da 10 miliardi sulla spesa corrente per scongiurare l'aumento dell'IVA, ma senza interventi la pressione fiscale salirà comunque al 44,1% nel 2016. Ed è duello coi sindaci, l'abbiamo già visto ieri, si lamentava sulle pagine di Repubblica il presidente dei sindaci Fassino, oggi lo fa in un'altra intervista molto simile anche sul Corriere della Sera. Ma parlavamo ieri anche del fatto che insieme al DEF vengono presentate anche le previsioni di crescita e di spesa, che in genere non corrispondono mai. Allora ci torna quest'oggi la Repubblica con Massimo Riva. E pare che questa volta ci sia stato davvero un eccesso di prudenza. Il DEF è per sua natura un catalogo di obiettivi, scrive Massimo Riva, da sempre condito con la salsa dolciastra delle buone intenzioni. Ecco perché accade sovente che le sue poste fondamentali vengano smentite dalle verifiche a consuntivo, tanto da legittimare il diffuso sentimento di scetticismo. Tuttavia, ad ammorbidire questo tasso di incredulità, soprattutto per quanto riguarda la crescita del PIL, questa volta concorrono, almeno scrive Massimo Riva, circostanze esterne così favorevoli come non si vedevano da un pezzo. E indubbiamente qualche segnale da questo punto di vista c'è. Fatto sta che un aumento del PIL del 2015 nella misura dello 0,7% appare non troppo aleatorio, così almeno stando a Massimo Riva, che però conclude. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che quest'anno non ci saranno né tagli né aumenti di tasse, bene nel secondo caso, meno nel primo, anche se fra le righe della bozza del DEF si può volenterosamente arguire che nelle intenzioni del governo alleggerimento fiscale sia programmato ma per il 2016. Attenzione, per un'economia stremata e solo ora in timida ripresa, l'anno prossimo potrebbe essere un po' troppo tardi. Per far fruttare i primi germogli di rilancio in atto occorre uno sforzo ulteriore, cercando in maggiori tagli alla spesa pubblica le risorse utili ai correttivi. Maggiori tagli però vuol dire maggiori proteste, dicevamo, i sindaci. E allora La Stampa, nelle pagine interne, Renzi sfida i sindaci, pronto a un confronto all'americana. Il confronto all'americana tra Fassino e Renzi, che è già cominciato ieri in conferenza stampa. Ve ne leggo solo qualche stralcio dalle pagine interne del quotidiano torinese. Dice testualmente il Premier: è del tutto normale che un amministratore di città metropolitana, per esempio l'ottimo sindaco di Torino, chi è Piero Fassino, insomma gioca un po' con le parole Renzi, insomma, scrive La Stampa. Per una volta il mago della comunicazione ha un po' perso il filo, eppure chi lo ascolta resta la sensazione che quel curioso zizzagare sia un modo per indorare la frecciatina a Piero Fassino. Ma, aggiunge Fabio Martini sulla Stampa, Eppure la lobby dei sindaci ha avuto un peso nella sua scalata al potere. Nella stagione della transizione del PD, quella guidata da Guglielmo Epifani, proprio i sindaci appoggiarono Renzi contro la ditta, aiutando il sindaco di Firenze a vincere le primarie. E una volta che Renzi è sceso a Palazzo Chigi, l'associazione dei sindaci si è fatta governo col suo presidente Graziano Del Rio. Ma alla fine quelle di Renzi non sono altro che battute per preparare il terreno alla trattativa finale. Che dovrebbe cominciare. Trattativa finale che comprende però anche un altro tassello che sono ancora le province, che restano nel limbo. Il manifesto ce lo ricorda questa mattina, in 20.000 nel limbo delle province. Abolizione delle province, mobilità orizzontale per i lavoratori. Ad un anno dai soliti annunci, due caposaldi della politica del governo Renzi in fatto di pubblica amministrazione mostrano i loro ritardi. Tutti trasferiti sulla pelle dei lavoratori. E allora ecco, manifestazione a Roma per denunciare ancora una volta il ritardo della riforma, mentre, come scrive La Stampa, comincia la trattativa finale con i sindaci. E allora, per non lasciare nulla, per non farci mancare nulla questa mattina in tema di politica, ecco che, attenzione, però siamo di nuovo in campagna elettorale, perché magari qualcuno non se n'è accorto, qualcuno ha perso il filo, ma siamo ancora in campagna elettorale. Corriere della Sera. Andiamo anche qui nelle pagine interne, a pagina 11, perché attenzione, si vota per le regionali e quindi anche qui la trattativa finale sì, ma attenzione. E allora scrive Massimo Rebotti: se perdi una puntata rischi di non capirci più nulla. Le regionali 2015 sono un tale intreccio di alleanze e spaccature tra i partiti, ma soprattutto dentro i partiti, da mettere a dura prova la buona volontà di informarsi. Si vota domenica 31 maggio in 7 regioni. Sono Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Puglia e Campania. Ma si va ognuno un po' per conto suo con inedite alleanze. Allora, Massimo Rebotti scrive: il PD, che a Roma governa con Alleanza Popolare, cioè il nuovo centrodestra UDC, non ripropone la stessa formula, ma nemmeno l'alleanza con SEL. E allora che succede? Il cuore della sfida a sinistra in Liguria, dopo le primarie contestate e l'addio polemico di Sergio Cofferati, un parlamentare, Luca Pastorino, ha lasciato il PD per correre contro la candidata del PD, Raffaella Paita. Mai visto. E allora Forza Italia e Lega, dopo settimane di tentennamenti, hanno deciso di giocare insieme la carta Giovanni Toti. Per il centrodestra il caso simbolo invece è il Veneto. Qui è stata la Lega a spaccarsi: da una parte il governatore uscente Luca Zaia, dall'altro il sindaco di Verona Flavio Tosi, in mezzo Alessandra Moretti del PD, che è lei questa volta a tentare il colpaccio in una regione da sempre impossibile per la sinistra. E allora, siamo qui. Chi non avesse ben capito, pagina 11 del Corriere della Sera, riproviamo a fare il punto. Chi riprova a fare il punto è il neo ministro alle infrastrutture Del Rio. Ieri Renzi, tra l'altro, ha fatto una gaffa in conferenza stampa, ha annunciato Lupi, ma in realtà ormai è arrivato Del Rio. Andiamo allora nelle pagine interne del Messaggero. Eccolo qua, è arrivato un nuovo ministro alle infrastrutture. Nuovo piano delle opere strategiche. Piano da 76 miliardi, 51 opere strategiche. Cambia ancora una volta l'elenco. C'è una nuova griglia. Graziano Del Rio l'ha illustrata al presidente del Consiglio Matteo Renzi in vista del ministro dei consigli di venerdì, che tornerà a parlare, dicevamo, del DEF. Nella nuova griglia, se la volete, pagina 3 del Messaggero, cambia tutto. Sorpresa, non c'è Orte Mestre, ci sono invece strade e autostrade, la Pedemontana Lombarda, quella Veneta, ancora il completamento della Salerno-Reggio Calabria, la Statale Ionica. Insomma, chi entra e chi esce, siamo alla nuova lista, questa volta targata Graziano Del Rio. Restando sul Messaggero, visto che ci siamo... andiamo invece anche a pagina 13, c'è un'altra notizia che non c'è sugli altri quotidiani, ma ma interessa anche questa, scuola 6 milioni per i prof di religione, ai 13.000 insegnanti sarà riconosciuta una card di 500 euro annui per la formazione e l'aggiornamento, erano stati esclusi nel DDL, rientrano, superate le divisioni in Parlamento. Per molti però la spesa avrebbe dovuto essere a carico della curia che sceglie i docenti. Insomma, altra polemica, altra discussione. Anche qui soldi che vanno e vengono. La Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport, la Juve piglia tutto a gran pagina, ma scrive la Gazzetta dello Sport, clamoroso, Moratti rivuole l'Inter. L'ex presidente, molto tentato di tornare al comando con amici importanti, Tronchetti e Pellegrini, nuovi amici, fondi stranieri e soprattutto un azionariato popolare, scrive la Gazzetta dello Sport, i dubbi di Toir, ha speso 82 milioni ma l'Europa è ancora lontana. E allora ecco i ripensamenti dell'indonesiano che potrebbero favorire il ritorno di un nuovo Moratti. Ed è solo un caso se proprio ora ho letto la Gazzetta dello Sport, e se saluto Mauro Meazza, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno Anna, ti ringrazio. Sei capitato premura. Proprio qui, guarda, è stato casuale. Hai sì. Pronto l'Eurino, eh? Perché qui Per sostenere l'azionariato popolare, vedi un po', insomma, adesso vediamo magari quando poi avremo i dettagli di questa eventuale operazione e magari li commenteremo sul Sole 24 Ore, così insomma cercheremo di... Tanto sai, ero più preso dalle questioni del DEF sostenere la mia squadra del cuore, come dire, dovrei prima capire... Comincia se la strada del DEF. Se comincia, no, come spiega oggi Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, dice: ma in realtà vedere i numeri non sembra che ci sia una riduzione delle tasse. Poi, per carità, il ragionamento è molto articolato, no? È impossibile riassumerlo in così poco tempo. Allora vediamo se non c'è un aumento, allora metteremo da parte qualche cosa anche per il sostegno alle ragioni del cuore, diciamo così, cioè della squadra del cuore, intendo. Ero molto incuriosito anche da questa vicenda, devo dire un po' tecnica, ma poi alla fine maledettamente di dirimente per questioni economiche, delle dubbi di Bruxelles sulle imposte differite attive. Ora io non ti vorrei annoiare, cara Anna, sulle imposte differite attive che so tu conosci benissimo, è così, no? So tutto, come no? Ecco, però sappi... Poi mi dai qualche ripetizione, perché... Molto molto volentieri. Le imposte differite attive, ci sono dei dubbi da parte di Bruxelles che riguardano appunto i bilanci bancari, riguardano in particolare le banche nostre, quelle greche e quelle spagnole, e lì insomma, al di là delle cose tecniche, ballano contestazioni per noi di una trentina di miliardi. Lo sto leggendo appunto da Finanza e Mercati, lo stavo leggendo adesso quando mi hai però distratto con quest'altra notizia riguardante la mia squadra. Vedremo poi che cosa succederà, non so se anche lì c'è qualcosa di bilancistico che si possa considerare. Intanto ti voglio dire, ieri ti dicevo che ci aspettavamo una soluzione per i dirigenti delle entrate, sai, quelli che sono stati colpiti, per dir così, ce l'hai annunciato, sì. E io l'ho annunciato, per dire la verità anche il governo l'aveva annunciato, però no, facciamo, vediamo più. Bisogna riflettere. Vediamo più avanti, forse perché questa non può essere considerata una settimana davvero decisiva. Ecco, allora aspettiamo un momento. Questa è stata più o meno la decisione, no, non c'è stato il tempo, a dire la verità, discutendo del DEF, di cui appunto ti dicevo prima, discutendo del DEF non c'è stato poi il tempo di affrontare a dovere la questione dei dirigenti. E poi altre questioni fiscali oggi ti segnalo su Sole 24 Ore. Oggi sono molto qui radio fisco, diciamo, non so perché mi è venuto questo slancio molto tributario. E c'è anche la questione degli imbullonati, che pure tu conosci benissimo, insieme alle differite attive, sono un po', diciamo, fratello e sorella, le differite attive e gli imbullonati. No, scherzo, naturalmente è una questione molto seria, si tratta del prelievo ad esempio delle imposte locali per gli immobili anche sui macchinari delle imprese, ed è un po' come effettivamente se in casa ti tassassero pure i mobili, che effettivamente sembra un pochino specioso, ma tutto viene spiegato oggi da un'inchiesta che presentiamo e parte oggi appunto sulle pagine di Impresa e Territori. Poi ti voglio anche dire però che se per caso un giorno tu non dovessi più lavorare a Radio 24, cosa che però io non mi auguro come ascoltatore, naturalmente. Meno male. No, assolutamente. Vengo a fianco a te, Mauro, vengo al piano di sopra, aspettami. No, ma potremmo invece fare una cosa. Oggi andiamo in edicola, entrambi, e intanto che passeggiamo io ti spiego magari quelle poche cose che non sai delle imposte differite qualche attive. Particolare. Qualche dettaglio delle imposte differite attive con cui non voglio annoiare gli ascoltatori. E intanto ci rechiamo in edicola perché oggi in edicola insieme al Sole 24 Ore c'è anche un focus, cioè un allegato, un prodotto in 16 pagine in cui si spiega come avviare un'attività. Quindi potremmo tu e io avviare un'attività alternativa ai nostri mestieri, alle nostre chiacchierate mattutine. Che è sempre un'ipotesi da tenere in considerazione. Una sorta di piano B. Dai. Una sorta di piano B. Io intanto provo a ritirarmi, vediamo un po' che succede, ti lascio il microfono. Va bene. Traffico! 24 mattino. E c'è un altro tema sui quotidiani di quest'oggi, di cui già vi annunciavo parleremo anche noi dopo il giornale radio delle 8. E un'altra Srebrenica, orrore in Siria, la ferocia dell'ISIS nella città dei profughi, l'ONU 3500 bimbi allo stremo. Il titolo è quello dell'immagine centrale che appare al centro della prima pagina questa mattina della Repubblica, però la trovate veramente un po' su tutti i quotidiani. Le vittime palestinesi. Gad Lerner scrive così quest'oggi. La decapitazione dell'imam Hurani, considerato la principale autorità religiosa del campo palestinese di Yarmouk, che ormai davvero abbiamo imparato, ahimè, a conoscere, e la sua testa conficcata per spregio su un palo da parte dei miliziani jihadisti dell'ISIS e di Al-Nusra infrange l'ennesimo tabù. Scrive Gad Lerner. La brutalità omicida è l'unico linguaggio riconosciuto come efficace dagli jihadisti. Se i palestinesi non aderiscono spontaneamente al loro progetto di conquista del potere, viene demolita anche la loro funzione di popolo simbolo dei soprusi perpetrati in terra musulmana dagli occidentali. Più precisamente, l'ideologia premoderna del ritorno all'età dei califfi che salta a pie pari la vicenda novecentesca. Il popolo martire non serve più a unire i musulmani, così scrive Gad Lerner, essendo ormai giunto il tempo apocalittico di una islamizzazione globale, la cui prima tappa è spugnare le grandi città della tradizione post-coranica, oggi Damasco, Aleppo, Baghdad, domani la Mecca, Istanbul e il Cairo. E scrive, conclude il suo ragionamento Gad Lerner, che però è molto complesso, molto lungo. Le cifre dell'odierna ecatombe siriana fanno impallidire le stragi del passato e forse più ancora delle crudeltà commesse a Yarmouk. Il mondo è spaventato dalle bandiere nere giunte alla periferia di Damasco, ma ancora una volta solo i palestinesi le vittime sacrificali di un passaggio storico che annuncia guerra totale. È davvero guerra totale? La strage dell'ISIS, l'ONU lancia l'allarme, è un'altra Srebrenica. Così il Gad Lerner sul Corriere della Sera a parlare. Un'intervista, andiamo nelle pagine interne, a pagina 9, padre Chizito, molti magari lo conoscono, ha trascorso quasi tutta la vita in Africa, con Boniano, in Kenya ha aperto caso di famiglie per i bimbi di strada, dove accoglie sia cristiani che musulmani. L'ha intervistato oggi il Corriere della Sera. Cosa significa essere cristiani oggi laggiù? Chiede Sara Gandolfi. Al di là delle persecuzioni e dell'orrore vissuti in questi giorni, io sono fra amici cristiani e musulmani. Non mi sento mai in pericolo. Questi gruppi di fanatici ed assassini nella vastità dell'Africa sono un fenomeno circoscritto che attrae un numero ristretto di persone in aree limitate. Così dice padre Chizito. Allora è guerra globale o sono aree limitate? Chiede Sara Gandolfi a padre Chizito. I vescovi del Kenya chiedono sicurezza. Basterà No, risponde. Serve una riflessione profonda al nodo centrale. Quale rapporto si creerà nei prossimi 30-50 anni tra cristiani e musulmani in Africa? Un rapporto storicamente tumultuoso, perché la religione della tradizione africana è stata interlocutore sia dei cristiani sia degli islamici, è impegnata nella tolleranza. Tant'è vero che dove l'Islam si è africanizzato, penso al Senegal, Burkina Faso, al Mali, non si sono verificati problemi di convivenza. Perché invece in Somalia e Nigeria è andata diversamente? È l'influenza recente di un Islam impazzito, fanatico, sicuramente manovrato per ragioni politiche ed economiche, che nasce al di fuori del contesto africano e obbedisce a ragioni estranee alla religione. Qualcuno, nelle parole del Papa dei giorni scorsi, chiedono ancora, ha letto un invito alla guerra santa. I temi sono questi, la guerra globale e poi la guerra santa? Assolutamente no, dice Padre Zito. Credo che Papa Francesco voglia farci pensare al mostro che è dentro tutto di noi, l'odio che portiamo dentro. Ma il dialogo è possibile? Ci sono tanti islamici disposti al dialogo con i cristiani e non solo in Africa, così dice Padre Chizzito. Di certo però la discussione, come dicevamo, è più ampia. Ne scrive anche il Foglio quest'oggi, anche qui vi leggo solo qualche stralcio, perché c'è da dire che le analisi e le discussioni sono poi molto, molto complesse, soprattutto dopo l'intervista ieri del ministro degli esteri italiano Gentiloni, che ha detto abbastanza chiaramente che insomma va almeno valutato un intervento militare. Una ricerca olandese shock, scrive il Foglio, demolisce gli stereotipi e spiega perché il fondamentalismo matura nella zona grigia dell'integrazione, quindi ribalta un po' la discussione. C'è uno stereotipo secondo cui i giovani europei che partono per la Siria siano vittime di una società che non li accetta e che non ha offerto loro opportunità. Questo non è supportato da prove empiriche, almeno stando a questa ricerca olandese. L'integrazione non come antidoto, ma come fermento che facilita il terrorismo, invece la tesi di un gruppo di accademici olandesi. La verità sta nel mezzo, dicevamo, torneremo a parlarne più avanti. Voltiamo pagina però, perché parliamo anche d'altro, restiamo all'estero già che ci siamo, e sulle pagine invece del Corriere della Sera c'è un'altra corsa. Abbiamo parlato delle nostre elezioni, ma ormai ci siamo quasi anche alle elezioni americane. E allora eccoli i candidati che cominciano a sfilare. L'ultimo a entrare in campo è Rand Paul, il liberista spericolato con marijuana per tutti, così scrive il Corriere della Sera pagina 15. Rand Paul è il primo caso di candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, firmatario di una proposta di legge che porterebbe alla legalizzazione della marijuana. È il primo candidato repubblicano che, se vincesse la nomination, sarebbe meno falco in politica estera della sfidante democratica prevista Hillary Clinton, perché non vuole che lo Stato spenda troppo a casa e soprattutto fuori. Queste sono le ragioni. Il primo ad accettare contributi elettorali in Bitcoin per la nascita, un liberista spericolato, meno di suo padre Ron per due primarie candidato di bandiera, ma libertario populista da ieri. Prima di fare il senatore esercitava come oculista nel Kentucky. Incarna, scrive il Corriere della Sera, un pezzo di elettorato americano patriottico, isolazionista, fiero del porto d'armi, e cominceremo a conoscerli perché comincia anche la lunga strada della corsa alla Casa Bianca. C'è ancora tempo, un paio di minuti, una breve carrellata allora ancora di un paio di notizie che trovate sui quotidiani di oggi, a cominciare dal padre, il padre del Botox, il male dell'uomo che odiava le rughe, suicida il padre del Botox, il dermatologo delle celebrity, Frederick Brand, pioniere dell'uso della tossina botulinica, si è ucciso, ha inseguito il mito dell'eterna giovinezza, non ha resistito alla reale avanzata dell'età, così scrive Maria Luisa Agnese sul Corriere della Sera. Su Repubblica vi segnalo invece, se siete a caccia del curriculum perfetto, questa è l'apertura E questo è trovate oggi anche nelle pagine interno ancora del Corriere della Sera, di Repubblica. Ebbene, crolla il mito del curriculum, ecco come assume Google. Niente curriculum, non preoccupatevi, non perdite tempo col vostro curriculum vitae, non è così importante, almeno stando a Google. Preferisce generalisti dalla mente aperta, flessibile, versatile, capace di imboccare percorsi imprevisti, dunque di innovare. Un'azienda che riceve 2 milioni però di candidature all'anno, quindi niente curriculum, ma la corsa, ahimè, molto ardua. Ultima segnalazione, sì, ancora un istante ce l'abbiamo. Beh, ultima segnalazione, parlavamo prima della corsa agli Stati Uniti, ebbene, ecco, la rivolta dei Navajo, degli indiani Navajo in America, non con frecce e arco, ma contro il cibo spazzatura. Boom di diabete e obesità, scrive il Fatto Quotidiano, questa la storia che arriva dagli Stati Uniti. Boom di diabete e obesità dopo che gli Stati Uniti li hanno sommersi con gli alimenti delle multinazionali. Ora la tribù contrattacca e tassa il junk food. La rivolta dei Navajo ora è contro il cibo spazzatura. Anche questo sui quotidiani di oggi, spunti come sempre di riflessioni. C'è il giornale radio, noi ci risentiamo subito dopo.